Nazarino. Boia. Mi sono affacciato alla finestra del bagno in strada, tutto libero, parcheggio, a destra tutto libero, a sinistra tutto libero, tutti al mare a mostrare le chiappe chiare, io inchiodato a casa, che putta. Mi sono rientrato, eh. Sì, c'è il profeta. Affermativo o positivo? Purtroppo, vabbè, che te devo dire, prima il dovere poi il piacere, ma qua non se ne esce più, comunque c'era abbastanza caldo. Per i miei gusti è sempre troppo. Buongiorno a tutti. Marco, fa la cortesia, attenua tutto e dammi un rapporto di segnale. Prova un po'. Prova. Capparoggero, 1, 2, 3. 3, segnale 3, leggendo la scala come la devo leggere io, nel modo corretto. Ok, memorizza, Adesso facciamo una piccola pausa. Recupero quello che c'è da recuperare e andiamo a ballare. Balliamo. C'era anche Natalino. Io adesso vi lascio, dai. Ci sentiamo dopo, ok? Sì, qua rimane acceso tanto, Qui il commissario Auricio, che facciamo? Balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Non fare lo stronzo, sono il commissario Auricio. Di che commissariato sei? Continua a cantare, continua. Quello è il pezzo dei benvenuti a sti frocioni. Hai finito però? Millomi, trovato. A tutto va bene. Niente, non è questo. Benvenuti a sti frocioni, belle grossi e capoccioni. E tu che sei un po' fifì, e dimmi un po' che c'hai da dire. Continui. Continua a suonare. Non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti. Beh, signori, io vado a farmi un riposino, al limite ci sentiamo più tardi. All'una, già riposino, mazza, ma ti sei giudicato presto. Io ho già mangiato, bello bene. Ho già pranzato io. No, per quello, io ho fatto colazione mezz'ora fa, mamma mia. Vabbè, dai, ci sentiamo. Sì, ciao Marco, ciao. Ci sentiamo più tardi. Ma anche la voce mi sta mancando. E che io poi faccio delle prove. Prova, io ci sento. Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto. Che devi prendere? Roba bella, bella veramente. No, la fabbrica. Ah, quanto è bello tutte le lampadine, tutte le macchinette. Le più sofisticate elaborazioni della cibernetica. Ma per noi il bene più prezioso sono i nostri cari lavoratori. Lei, prego, s'accomodi. Auli ule tuli le blen blu. Barba papà. Ecco qua, adesso va bene, non vuoi un'anima, sono tutti al mare a mostrare chi a pecchiare e poi stasera vediamo se si riesce a fare questo, e che non ci sia troppa propagazione, spero, perché di notte era fino a luna di notte, cazzo segnali, ti rischia a sentire ancora 9, francesi, tutto vera. Tipo il Barcellona, spagnoli, c'era tutta Europa in FM, quasi tutti i canali lì. Ehi, il rumore di fondo comunque si è abbassato un po', Poi, a quanto pare mi sta dicendo che non c'è nessun incremento, vabbè, comunque, per il resto non è cambiato niente. Il giorno era un po' così, sperimentare più a lungo. I vatti sono sempre quelli, sono 4 e insomma, 4 dai. via. Aspetta, messaggio. Ci sei? E stiamo preparando due messaggi vocali per te. Ascoltali, dai. Bene, me, dai, io vado a assicurare tutto e ritiro la ferraglia, dai. Casomai o ci sentiamo subito dopo oppure più tardi, ok? Va bene, a più tardi. Adesso è ora di davvero, saranno tutti cuccardi oppure chi è fuori, eccetera. Ci sentiamo, ciao, a dopo, ciao. Ehi, a da voi. Ah, tutto a posto, dai. Ritirato todos. Marco, c'è ancora l'ascolto? Alcune volte anche... C'è qualcuno qua? Meraviglioso, perché se... Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Ho l'attenzione 10. Non conviene neanche uscire dalla casa. C'è qualcuno all'ascolto? Tutti morti? Marco, tu sei? Ecco un po' da cazzo stai parlando. Già ti ascolto. Canale 10. E come fai con le stazionali? Chi è avanti? Chi è? No, chi è lei? Si qualifichi, si identifichi. Natalino Alfa 1 da questa parte, lei chi è? Colui che fece le profezie. Buonasera. Ciao, ciao. Buonasera, Gian. Eia. Ero mezzo appisolato, c'avevo lo squelce chiuso e mi avete svegliato, ragazzi. Ma deve essere che non c'è più propagazione, così è. No, ho sentito qualcuno, si è aperto lo squelce, ci siamo in escidato, guess. Mannaggia a voi. No, io stavo facendo delle prove, capito? Ah, ecco. Oh, yeah. Quindi tutto attenuato, vabbè che siamo attaccatissimi, tutto attenuato sono 8, giusto la tari? E via. Bene Meda, anche adesso? Prova a dargli una sbirciata, adesso faccio un passaggio un po' più lungo, un po' di bianco, pasta in bianco, e vediamo un po'. Ah no, se 9.30, se tu attimo magari... Infatti prova ad attenuare tutto, a chiudere l'RF gain, a vedere se è sempre 8. Santiago 8. Bene Meda, ok. Il Condor è passato, no? Non l'ho sentito. Oia. Chiamata per il Condor. Charlie Bravo chiama Condor, cambio. Attenzione Rata Pignara, non risponde, no, deve essere che è coricato. Attento Rata Pignara, ci sei, hai un innesco. C'è un innesco in corso, cambio. Avanti. Ehi dimmi. Ehi, non ti ho capito, aspetta che... Uia. E allora? 60 minuti sempre. E chi era l'amico entrato? E boh, non l'ho riconosciuto, no? Quello con il mischio? Via. Ha fatto ciucucciù, però no, non è Antonello. Eh sì, la voce non era quella di Antonello. Oh, yeah. Condor che passa, ci senti, cambio. Nuda freccia, neanche un tuncio, tutti accalamaiati sono. Anche io ero accalamaiato, mi sono svegliato poco fa, alzatomene un poco fa, non ne ho preso il sonno. E io te l'ho detto, ho lasciato lo squarcio chiuso, poi ho entrato tu, qualcuno mi hai scendato. Anche io ero con un occhio chiuso e l'altro aperto, strampato nel letto. E io pure. come hai fatto Ricciardi, un occhio fulmilla e l'altro guardilla, così. Ah no, mica abbiamo svegliato il rapace. No, che mi sono ricordato che devo mettere mano ai fornelli qua. Ah, oggi avete notato, mentre ieri c'è stato veramente il delirio della propagazione, oggi calma piatta, ce n'era un po' stamattina ma si è calmata, adesso c'è calma piatta, grazie a Dio. E infatti si è ritirata la propagazione. Sì, ieri era un delirio anche sul tardi, quando sono rientrato acceso, era una muruta allucinante. E tu Natali, oggi domenica lezione ne fai? No, no, solo il venerdì. Ah, solo un giorno a settimana, E allora? È un giorno a settimana, capito? No, io credevo più volte a settimana, tranne sabato e domenica magari. No, è un giorno, il venerdì solo, poi studi per conto tuo, ti fai esercizi o cose del genere, ti metti a studiare. Kappa, vabbè, adesso mettiamo ai fornelli, poi se entra qualcuno bene, così da. Ok, buoni fornelli allora. Io non mangio proprio gana. Vorrei mangiare qualcosa, ma non ho tutto questo grande appetito. E infatti, non so che fa. Ma anche io il bipicio? Sì signore. Vabbè, lo lasciamo, dai. Così siamo tutti col bipi. Vabbè, i bip più originali ce li ho io, ma sono spenti gli apparati, là. Quelli tutti. E anche io quando avevo il 555 lo facevo come volevo il bip. Via. Sì, lì potevi regolare il tono e la durata, però non potevi fare toni multipli. Vabbè, i CRT hanno una serie di toni fino a 5, però non li puoi modificare, tipo trillo telefonico oppure tipo cane fuggendo. Abito vicino alla bella, cosa ha cercato a lei? Mi piacerebbe, come quello della selettiva. L'idea che della forse riuscirò. Quello era carino, la selettiva, così. Quello che c'ha un bel bipi è Antonello. Vabbè, ma non erano come quello della selettiva, ragazzi. Mi manco di quattro, so. Due palle. Che noia, che barba. Uffami. Che barba, che noia. Ho letto poco fa su, non mi ricordo dove, che la Ferrari ci ha fatto i vasi, così è. Chi è che ci ha preso i vasi? Si è ritirato qualcuno della Ferrari, non so se era Leclerc o Lascio, l'ho visto nella homepage del sito dell'Ansa. E avrà avuto qualche incidente, qualche cosa. Dice che gli stava fumando il motore. E beh, allora Gianluca Grillo con ragione si è ritirato. Si rompono anche quei barragioni, hai visto? Centinaia e migliaia di euro e si facciano i brughissi. Soprattutto quelli, se non stai attento ci metti molto poco a fondere. Ma quando ero piccolo mi appassionava, da poi me ne è passata tutta la fantasia, per carità. È finita un'era, è come quella. Penso che non esisterà altro. Diesel e benzina per agevolare quelle elettriche. Ma ordine di Medigami. Marco, tu sei con la selettiva? Sì, è roba di YouTube, non è roba mia. Sarebbe a essere? La selettiva serviva per aprire le comunicazioni con una macchina, con la base, come fosse un una chiata selettiva, come un subtono, dai. Cioè mandavi quelle e riceveva solo la macchina che serviva, o viceversa la base, dalla macchina chiamavi la base e sentivano solo quella macchina e la base. E quello lì era. E quando ero nella protezione civile ce l'avevamo, dovevi chiamare una certa macchina, cioè avevi l'elenco, no, delle selettive, mettevi il numero e ti apriva il ponte per quella macchina. Cazzo, roba seria allora, no? Non erano certo in 27, no? Erano sulle VHF quelle lì. Oia. Sì, non so, anche io sono indeciso su cosa mangiare, no? È assolutamente idea, boh. E io mangio verso le 7, 7 e mezzo. Io a pranzo ho mangiato due fettine di cavallo con e i gigioni col cotto. Ah, gli occhietti al sugo, così è. Oh yeah. No, la pasta l'ho mangiata ieri, adesso se ne parlerà. Era sbagliato i giorni. Ok. Lo chef Rubio è andato già ai fornelli. Marco sì. Sì, tanta roba pronta, Emmy. Ci mangiamo lasagne e quelle con ricotta e spinaci. Ma roba a darla, uff. Non lo so, boh. In questi casi l'ultima spiaggia è una bella insalatona. Oh yeah. Sì, da sta. Avete visto le tonsille? Noi la facciamo raffreddare bene, però forse per me io mi sarei mangiato anche un'insalata di riso. Gira. Io posso mangiare differito da mamma, capito? Un'insalata di pasta, una cosa fresca. Adesso decido, dai. Tanta fretta non c'è nemmeno. C'è un silenzio di tomba. Qua non vola una mosca, non passa una macchina. Cristo. Deve essere un carnaio la spiaggia. Tutte con le tette devora. E che non diventi una spiaggia nudista, miri, la rotonda. Te le immagini? Sì. Così la arricciano a tutti. No, quelle sono più nascoste, diciamo, le spiagge naturiste. C'è in Corsica, mi pare, forse si diceva Portoferro, una piccola parte, poi tutta frequentata da omosessuali, si diceva, figuriamoci. Quindi non è solo, non è per la Tintarella o per il naturismo. Alla Valle della Luna c'è. Eppure Alghero c'è. Anche ad Alghero? Sì. Io, buonasera, chi è entrato? Chi è Vittorio Volpe? No, buonasera a voi, Claudio Porro Torres. Ah, caspita, Claudio. 9 più 5 e oltre, tendente a 9 più 10. Credevo fosse un segnale da Sassari. Lì ti mandò Gianni avanti. Comunque, Claudio, io sto usando 3 watt. 3 watt utili, vediamo Gianni come arriva. Vai Gianni. Eia. Ciao Claudio Nevada, da Papatango a Paolo Torres, qui Gianni the Prophet, coordinate stazione, mi dai un rapporto di segnale per cortesia, grazie. Beh, questo è un un apparato nuovo che ho appena comprato e dovrebbe essere perché qui c'è a barrette e 7-8 dovrebbe essere Gianni. Ok, quindi 7 variabile 8, dai. Bene, Meda. Tu invece sei 9 pieno. Avanti. Ok, questo è un baracchinetto da 4 soldi, PNI 9005. E io come ti arrivo? Natalino Alfa 1, so. Ciao Natalino, 8. Mi arrivi 8, arrivi benissimo. Thank you. Allora, vediamo il segnale per Marco, 1, 2, 3, prova, portante muta. Ecco qua. Marco, 6, 8, 8 con picchi positivi, ottima modulazione, ottima, come sempre. Sì, insomma già, tutti 8, dai, siamo bene o male in linea. E conta che io ce l'ho pure coperto per Torres. Va bene, buono, buono. Meno male che oggi non c'è propagazione, c'è silenzio. Riusciamo a durare bene anche con i paesi limitrofi. Comunque, io, Gianni, riprendi tu, io da parte di scherzi vado in cucina, sennò qua non riusciamo più. Rimango in bianco, ok? A dopo, ciao. Eia, sì, oggi l'etere è un po' più pulito del solito, dai, rispetto ai giorni scorsi. Sì, dai, più o meno ci equivaliamo tutti, dai, quindi la tripla 8. Eia. Avanti, Claudio. Ok. Come radio, come sono? Va benissimo dalle mie parti. Una radio normale, non troppo amplificata, va benissimo per me. Poi sentiamo cosa dice Natalino. Va bene la radio di Claudio, capito? Va benissimo. Ok, questo è tutto regolare. Dovrebbe dare questo apparato dovrebbe dare un 7 watt, 8 watt massimo, non di più. E l'ho voluto prendere perché mi serviva un omologato e quindi adesso ce l'ho e sono un po' più tranquillo. E così, vabbè, Marco se n'è andato e chi c'era poi non mi ricordo. Avanti tu Gianni, poi fai girare. Sì, è andato, si è spostato ai fornelli Marco. Sì, anche qua i fatti sono quelli, 4 watt, quindi siamo tutti bravi, dai. Stiamo facendo i bravi ragazzi. E anche io ho 4 watt qua. Sta arrivando 9-10 però Claudio qua. Qualche watt in più forse sta usando di noi. Perché se arriviamo tutti 8 e lui 9-10 qua. E la posizione che conta Natalino? Evidentemente sì. Io sono proprio a fianco al faro di Porto Torres, abbastanza zona alta, libera, sia per Sassari che per tranne che magari questo un po' alghero, sono un pochettino tappato, però verso le altre parti sono abbastanza libero. Ecco, sto facendo veramente bene qua. Io ho 4 watt, sono oltre 1.900 omologato qua. E purtroppo più di 4 non ne posso dare. Io da qua a casa vedo perfettamente la zona industriale, però Porto Torres non si vede perché è più in basso, quindi rimane nascosto. Però è tutto libero, Asinara, Stintino compreso, qui dalla mia posizione. Un attimo di bianco. Oggi giornata di fuoco, fa molto caldo. In spiaggia ci sarà una fornace senz'altro. Ho preferito rimanere a casa a frugare un po' qui nelle radio, così magari sono un po' più al fresco. Vediamo. Sicuramente saranno meglio loro con i piedi a bagno, dai. E prendersi un po' di sole che non guasta. Ok. Gianni, tu sei dove c'era una volta quello delle rettifiche, mi sembra che si chiamava Cappelli. Più o meno, sì. A grandi linee sono nelle vicinanze, sì. E venivo spesso lì a ritirare qualche testata, qualche pezzo. Quando ogni briaghiera chi su guai, era sempre cotto, era sempre cotto. È passato un po' di tempo, sì, perché poi c'era anche il negozietto di ricambi piccolino, sempre qua in Corso Vico. Sì, sì, confermo, vero. E un po' di anni sono passati, ma non c'è più adesso, no? No, negativo. Dopo che ha chiuso le rettifiche, dopo qualche anno ha aperto un'officina di motociclette, aggiustava una bicicletta a motociclette, poi a Sarrado, e poi dopo anni ha aperto, sempre nello stesso locale, era una ciclofficina di un ragazzo che conoscevo, praticamente un locale dove si recuperavano biciclette con un piccolo angolo bar, e niente, poi per un po' di tempo è rimasto chiuso, adesso è stato riaperto da qualche anno come circolo bar, adesso è diventato bar, prima era circo, e niente, attualmente c'è un piccolo bar lì, dai. È già un po' che non passo di lì, e non ho più presente lì il posto. Prima anni fa ci andavo spesso, adesso non più. Quando salgo faccio di là dal ponte e tiro su dritto. E ok. Stavo guardando le antenne, stanno cuocendo, ne ho visto una bella nera, che caspita, la devo tirare giù a pulire un po', e non ne ho voglia, è un lavoraccio. A tirare giù il palo, non fare, adesso no, magari quest'autunno al fresco. scalda il sole. Sì, come metallucido, poi soprattutto dalle tre parti, che il cazzo del mare è proprio di fronte. Figurati, la salsedina come fa l'alluminio. Non lo fa solo a lui, a me quando stavo in campagna quella Energy che avevo era una BA27L uguale alla Energy praticamente. Mi ha ossidato la salsedine e il bocchettone dell'antenna, me ne farà, drugavo in terra, il 213 in terra, completo. Praticato proprio? No, la mia l'avevo ingrassata bene con la vasellina, avevo nastrato bene le fascette, insomma è abbastanza protetta, dai. E vabbè, la mia evidentemente il bocchettone dell'antenna non ci ho fatto caso e magari non l'avevo protetto. Il PL sì, però la staffa dove era attaccata il bocchettone dell'antenna, frasigata, me ne farà drugare in terra, il 213. Quando stavo in campagna era tremenda la salsedine. Ma verso mare eri? No, qua a Sassari, solo che ero molto in alto e ne saliva il vento del mare, ne saliva. Se mi ha marcito, io avevo la mantova a turbo, tre volte ne l'ho dovuta accendere perché mi ha marcito il piattello dove attaccavi i radiali, quel piattello tondo. Quello lì l'ho tutto pulito, l'ho verniciato, tutto rabbrazzico. Beh, tre volte nello stesso, alla fine ce l'ho buttata la mantova a turbo. Ok, io ho una mantova 1 che mi aveva dato Luca Schipper. È nuova, è tenuta benissimo, funziona bene, solo che mi dà una montagna di QRM, quello ne ho quanto a vendere proprio. E vabbè, faccio un minuto di bianco che devo andare a Cotiaca a piccolino. Questa mia è buona l'antenna che non piglia QRM, Armando. Questa è silenziosa, io ho la mantova 5 in campagna, ce ne sta ridendo. ma manca confronto con questa qui è troppo di lusso. E beh, l'antenna silenziosa è una gran cosa, io vabbè, a me piacciono in alluminio eccetera, però bisogna essere interessante avere anche quella lì, la Game Master. Aiuta molto contro il QRM elettrico, il QRN, quello che è, insomma. E infatti, non c'è paragone. Quella là c'avevo sempre il QRM Santiago 7, fisso, con la energia che avevo io. No, che lo facciamo. Cazzo, sempre fisso, 7 di QRM, non era nulla arrivare. Se uno arrivava più basso non lo sentivo. Lasciamo solo la tetturina, questo lo faccio scendere da solo e poi gliela metti. Ok, però voglio metterlo in un posto che l'ho messo. Guarda là, come è? Oh, anche la mia, la boomerang è abbastanza silenziosa, probabilmente anche la posizione, dai. Non becco sicuramente tutta una serie di rumori, di disturbi nell'etere. Da quel punto di vista non mi posso lamentare. E meno male. Guarda, io a Eugenio lo sentivo basso. Lo sentivo. Claudio, se non arrivava almeno un Santiago 8 non l'avrei sentito lo stesso. Adesso arriva 9-10 qua. A voglia che lo sento, e anche a Coso, anche a Eugenio lo sento, ho sentito a quello di a Chiodo Arrugginito, prima non lo sentivo assolutamente. Sono rientrato. Avanti Claudio. Ok, quindi con questa Mantova va bene, spara bene, riceve bene tutto, però ho molto QRM, ma ne ho anche troppo. Ci sono certi giorni che arrivo a 7, a 8. Invece stranamente quando piove QRM quasi zero, bello, pulito, una pacchia proprio, si sente benissimo tutto. E avevo provato a comprare la Game Master e ha migliorato parecchio come QRM, molto di meno, però alla prima venturiata si è fatta L e l'ho tolta subito, prima che si rompesse l'ho tolta. Ma un amico mio ce l'ha da tanto tempo e sta sempre andando la Game Master, bisogna saperla piazzare, il segreto è quello. Io lo stesso ho la Game Master, è silenziosissima. Tu cosa c'hai, la boomerang Gianni? Eia, sì, quella da 2,75 m, quella della Rem, ed è un bijou. Sì, è ottima, stai uscendo abbastanza bene, anch'io ce l'ho qua come scorta così. Comunque mi ricordo quando l'avevo piazzata, arrivavo 9 a Sassari, piazzata bene. Arrivavo 9. Sì, sì, io ci ho fatto anche di ex con questa antenna, infatti ho gonto. Vabbè, adesso di meno, però tipo l'anno scorso è capitato di parlare con Inghilterra, Germania, Francia, insomma, a parte gli spagnoli che arrivano sempre a bomboletta. E in questi giorni stranamente stavano arrivando dei bei segnali da Nord Italia, però la propagazione con la, come si dice, abbastanza accorta, c'è gente che arrivava fortissimo, dopo 10 minuti spariva. E perché non si è stabilizzata ancora, sennò lo sai che ora è, quelli di vicino non li senti più bene quelli di lontano, quindi è brutto mio. E adesso durante il giorno è molto aperta verso est, secondo l'orario senti questi russi, chi cavolo sono, che arrivano qua sparatissimi, oltre 9, 9, 10, incredibile, a Salino. E un attimo che stavo dicendo cosa mi ha voluto. E Marco rientrato era, no? Vediamo se lo chef Marco Rubio ha finito di cucinare. E non è preso per cucinare, vabbè. Ognuno. Giustamente, ognuno si muove in base alle, al proprio appetito. Oh, yeah. D'estate rispetto all'inverno le cose cambiano anche nel mangiare, per quanto mi riguarda. Oh, yeah. E anche Marco credo che sia così anche per lui. Aspetta, comunque Marco ha una bella modulazione, una bella voce pulita, chiara, non è forte, però è molto, molto pulita. Mi volevo chiedere con cosa stavo usando, ma se ne è andato. Superstar 3009, l'apparato migliore del mondo. Digli tu Natali. E infatti, adesso gli metto il microfono normale, così c'ho la voce uguale a quella di Marco. Ma il modello vecchio? Allora, no, questo diciamo è l'evoluzione del 3009 vecchio, sempre componenti classici, è uscito di produzione da qualche anno, diciamo che l'ho preso nel 2015 questo l'ho comprato, più o meno. Ed è uscito di produzione da pochissimi anni, 2-3 anni, è l'ultima versione del 3009. Sempre componenti classici, quella è una cosa per me positiva. Guarda Claudio, adesso sono col microfono normale. Beh, lo sai che è migliorato. Ah, è meglio col microfono normale. Beh, io ti sento meglio, bella modulazione più pulita. E quell'altro era un MB+4, ho capito. Io avevo il 3009 Superstar, quello il vecchio, e col frontalino satinato, proprio di qualche anno fa, e l'avevo dato a un amico qua vicino che dovrebbe avercelo ancora. No, sono apparecchi ottimi, con componenti discreti, no? Come adesso che questo baracchinetto che ho preso, per curiosità l'ho aperto, ci sono due integrati, una CPU è fatto baracchino, non c'è più altro. Ma adesso hai abbassato la potenza, qui arrivi 8 e mezzo, giusto, 8 e mezzo. No, non ho toccato niente, assolutamente nulla. Questo baracchino sulla carta dovrebbe... Eppure anche qua arriva più basso. Che poi non ci credo neanche. Strano, perché arrivavi 9+5, ho proprio guardato bene a Smith, 9+5, adesso è 8 e mezzo, e credo che stessi facendo prove. Ok, dai, ritorno in cucina, bianco per me, vai Gianni. Eia, eia, eia. La mia invece, la mia radiolina è un Intec Galaxy Uranus. Il vecchio proprietario era Eugenio. Ah, ok. Sì, l'avevo già sentito qua un tempo fa. No, va benissimo, un apparato che va molto bene. Eugenio starà lavorando come un nero adesso, che ci sono navi che va e vieni, e adesso è il momento suo. È già un po' che non lo sento. Il più piccolino sono sempre io. Buonasera a tutti, Claudio, Gianni, Natalino e Marco ai fornelli. Vai Claudio. Ciao Giulio, ben sentito. Ogni tanto ci risentiamo sempre. Ok. Stavo dicendo di Eugenio che adesso lui non conta sabato, domenica, feste, lui quando ci sono le navi deve andare a lavorare lì e via, e vabbè, il lavoro è il lavoro e bisogna andare, adesso è il suo momento, noi siamo già vecchietti a casa, è diverso, vieni avanti Giulio. Ok Claudio, tutto a posto. meglio così. E lo sappiamo, il lavoro che fa Eugenio, me l'ha raccontato una volta, soprattutto in questo periodo è molto massacrante, soffre molto il caldo, perché dove l'ambiente è micidiale è starci dentro. E vabbè, ognuno il suo lavoro, purtroppo lo possiamo portare avanti così. Avanti Natalino. Ciao Giù, buonasera, ben entrato. Ciao Natalino, ben ascoltato. Avanti Gianni, tu con la boomerang vai benissimo, non hai di che lamentarti, figurati. Posso? Lui. Ciao Giulio, buonasera. Va benissimo. Gloria. Com'era? Un vecchio ingegnere della Moto Guzzi e della Ducati, va, me ne ammetto. Meno cosa c'è, meno roba si rompe. Sì, beh, è sempre stato così su tutte le cose. Meno sofisticati sono gli apparecchi e meno possibilità di rompersi c'è. Avanti Marco. Zappa, ciao Giulio, stavo attaccando l'orecchio all'altoparlante, vi spiego perché, credevo dipendesse da me addirittura. Allora, su di te pulitissimo, non sento niente, sull'amico di Porrotore non sento niente, però quando parla Gianni e quando parla Natalino sento un'alternata. Leggera, ma c'è, cioè attaccando l'orecchio al coso io la sento. Su due stazioni, su quattro la sento, allora non dipende da me. Date una scucciolata al microfonino, alla spina microfonica. Beh, adesso ti lascio un po' di bianco e mi dici, perché io, questo è un accrocchiato microfono, gli ho messo una capsulina a condensatore con la batteria da 1,5, quindi è probabile che magari è un po' sporco il contatto della batteria. Ti lascio un altro qualche secondo di bianco e mi dici com'è. Guarda, io bassa ma la sento, a meno che non sia una ventolina un po' in vicinanza, ma a me sembra alternata. Giulio, non hai notato nulla? No, anche perché sono col volume molto basso, per cui non ho sentito niente. Sì, Claudio lo sto facendo benissimo, una bella radio, non è ad oggi a uscire bene, è sempre uscito bene, io l'ho sempre sentito bene. Claudio, non so come mi stai ascoltando tu, perché io sto usando solamente un watt con un baracchino Superstar vecchio, cioè nuova concessione, però di concessione moderna, sempre Superstar, comunque della stessa famiglia. Vai Claudio. Sì Giulio, ti sento benissimo. Nonostante che stai uscendo con abbastanza potenza, arrivi abbastanza bene qua, la radio è abbastanza molto comprensibile e il segnale, se vuoi a dirtelo, mi sembra intorno ai 7, roba così. Ripeto, con questo baracchino mi viene male a dare rapporti, perché è di quelli da 13, sono un po' già quelle barrette che non si capisce nulla. Comunque dovrebbe essere intorno a 7, roba così. Sì, è possibilissimo, visto è considerato un watt di potenza, cosa vuoi pretendere, non si può pretendere di più, per cui va bene. Sì, no, io anch'io ho lo strumento a barrette così, mi sta segnando 8, il tuo segnale mi sta segnando 8. Comunque la radio è ottima, veramente bella, pulita, chiara, non è a bomba, ma è proprio così che deve essere, la maniera più perfetta per poter ascoltare con piacere. Va bene, avanti Natalia. E anch'io ho il microfono normale qua a me, e quello originale suo. Ha detto che ho migliorato addirittura e scomiglio dell'MB+4. Forse perché il palmare lo tieni più vicino alla bocca e il suono arriva più diretto. Natalia, anche su di te, però su di te è più evidente questa alternata. sembra quel ronzio degli alimentatori, quelli col trasformatore grande, come si dice, quelli classici, un rumore simile. E ho capito, ma cosa può che sia, magari la ventolina dell'alimentatore, che ne so, io non la sento. Anche io sento quella di Natalino. Adesso ho messo un microfono palmare normale, l'altro quella crocchiata l'ho staccato. Ditemi se anche da me c'è un ronzio. Pulito. Sì, allora ho la batteria che si sta scaricando. Quel ronzio lì è come quando praticamente tu tocchi un cavo audio, no? Tipo, sai, quando colleghi un cavetto ad un amplificatore, magari tocchi il polo caldo dello spinotto, capito? C'è quel leggero ronzio, un suono di quel tipo, Natalino. E io non sto toccando nulla. E c'è di posto massacura a mano. Qua. No, non cambia. Controllate me, poi vi lascio in pace. Vedete un po'? Pulitissima. Sei salito di nuovo di segnale, ma di brutto, è da 8,5 a 9,5. C'è qualcosina che non quaglia lì, tocca e non tocca, non lo saprei. Forse l'alimentatore, adesso me ne sono accorto. Quegli alimentatori switching, quelli non servono proprio alla massa. Bisogna che appena posso lo riprendo, un bel alimentatore lineare di quelli a trasformatore, questi non servono a nulla. Sì, ripeto, 9 più 10, più forte di prima, era 9,5 all'inizio quando ci è entrato, poi 8,5, adesso 9 più 10 da Polo Torres, caspita, eccellente, già ne riprendi e vanno in cucina. Qua sempre 9, sempre puntellato 9, oh, yeah. Vabbè. Bene, davanti Giulio. Ok. Sì, diciamo che la differenza di segnale l'ho notata anch'io, Marco. In quest'ultimo passaggio che ha fatto Claudio è arrivato un po' più forte, evidentemente è proprio con qualche falso contatto appunto che non era perfetto. Va bene così. Claudio, ieri con questa potenza non fatta abbiamo collegato tutta l'Italia, io e Marco praticamente insieme, e devo dire che mi sentivo una meraviglia dappertutto. Va bene, la propagazione fa miracoli, lo sappiamo, però per dire, no, con un solo watt arrivi in capo al mondo. Claudio, vai. Sì, è vero Giulio, è vero. Tu pensa che c'è una schiera molto folta dei QRP, che sono quelli che hanno quegli apparatini che escono massimo con 5 watt in HS, o in CV, o che cosa, o quando la propagazione è aperta, riescono a collegare tutto il mondo, è vero, è vero, è vero. Poi addirittura fanno le spedizioni, vanno sopra i monti così, e con qualche watt in CV, un CV doppio e micidiale, riescono a coprire distanze enormi proprio, enormi proprio. E vabbè, non è magari nel nostro caso, quando ci riusciamo è una soddisfazione, e va bene così. Avanti Natali. Ehi K, questi alimentatori switching stanno rompendo le scatole. Prima non me la faceva, e questo l'apparato è nuovo, Sì, è così. Non so cosa dire. Se è possibile riprendo, non lo so. Ciao Claudio, grazie per la chiacchieratina, Natalino, Gianni e Marco. Io passo giù perché mi hanno chiamato, dai, ci sentiamo. Riprendi pure Marco se sei ancora all'ascolto. Riprendo io, magari Marco è impegnato ai fornelli. D'accordo Giulio, salutoni, ben sentito, ci risentiamo alle prossime senz'altro. Fa sempre piacere sentirti, eh? Ok. Marco, sei rientrato? Fornelli, dai, ne approfitto. Ciao Giulio, dai, alle prossime. Sai che tu sta facendo tipo pallina a ping pong da una parte all'altra. Ciao Giulio, buon Querretti, buon tutto. Stavo dicendo, chi è che conosce l'antenna Solarcom? Negativo per me, forse è Natalino. No, negativo, anche per me. È praticamente l'antenna madre che poi hanno scopiacciato la Game Master. E quella Solarcom c'è molti anni prima, è un'antenna americana. Come sigla dovrebbe chiamarsi esattamente IMAX 2000. Non saprei. Sì, vabbè, scoppiazzata, non scoppiazzata, io me la sto usando. Poi addirittura quell'amico mio c'ha questa Game Master che ce l'ha tanti anni e non se li è mai rotta, mai. Il vento gli ha piegato il palo, vedi, il palo gliel'ha piegato, però l'antenna non l'ha fatto nulla. E ne ha preso di vento quell'antenna. È per quello che io l'ho presa. No, ma andare bene va benissimo. Va benissimo, la mia era anche controventata dove consiglia il produttore, ma è tu devi vedere quando c'è vento qui dove abito io, qui è terribile, eh? Io sono proprio sul mare, qui quando tira la tramontana con le maestralatte non riesci a stare in piedi sul terrazzo, assolutamente, adesso poi è cambiato tutto, ogni tanto passa qualche tifone brutto, è incredibile proprio. Me lo posso immaginare, la zona un po' così è quella. Io ho un palo di 6 metri da un pollice e mezzo a schedula grossa, resistentissimo, tutto un pezzo, e sopra la mantova 1. Qualsiasi vento non gli fa assolutamente niente, nulla, proprio zero. E infatti, magari è troppo rigido e quindi può darsi che ti sia rotta per quello l'antenna. Però a quanto a QRM è troppo. Con la mantova sì, è logico che è troppo. Boh, mio amico che c'ha la famosa Grazioli, ma è una pacchia, un'antenna molto valida, è molto silenziosa, poi anche come ricezione è molto buona. Stavo valutando un po' a cambiarla, ma vediamo. E infatti, l'importante sia silenziosa l'antenna, perché se provoca QRM come le mantove è un macello. Cazzo, roba di QRM, io con quella Sirio che avevo, quella Energy, sempre Santiago 7, minimo Santiago 7 il QRM c'avevo. Se uno arrivava più basso non lo sentivo. È così, poi vabbè, dipende anche dall'apparato, se c'hai un apparato buono, che c'hai i filtri buoni, no? L'NB o la NL, filtri come si deve, insomma molto tappano, se no è un macello. Poi ci possono essere anche disturbi elettrici, quelli è una parola toglierli. Infatti quelli non li togli, se c'è disturbi elettrici o macello. Bene, sto uscendo sempre Claudio. Sì, sempre bene. Bisogna che mi buschi un alimentatore di quelli col trasformatore, perché questi qui, mi dicono sempre che c'ho l'alternata, adesso mi sono rotto le scatole però. E Gianni, tu cosa c'hai? Anche tu lo switching? No, negativo. Ho riciclato uno di quei vecchi alimentatori, tipo quelli per PC portatile, quelli sigillati neri, piccoli, chiusi. L'ho raccattato tempo fa, dell'amperaggio giusto, del voltaggio giusto. Va benissimo, poi è superfiltrato, quindi per il PC, quindi va più che bene, c'è il tanto necessario per alimentare la radio, dai. Sì, confermo, vanno benissimo. Ce ne sono anche di marca ottima che vanno molto bene, sì, è vero. Bisogna prelevare il voltaggio giusto perché sai che ci sono varie uscite. E comunque vanno bene, è vero. Picco lo metti dappertutto, insomma, poi non ronza, non fa rumore, va benissimo. Infatti adesso ne ho recuperato un altro, quello lo voglio attaccare all'altra radio e così siamo a posto. Io ne ho tre alimentatori, anzi quattro con quello da laboratorio, ma quello c'ha un ampere solo e arriva a 30 volt, quindi è inservibile per i baracchini, non serve a nulla. Poi ne ho un altro della Diamond, e quello di picco mi può arrivare a 15 ampere, roba del genere. Poi ne ho un altro da 10, di quelli vecchi, a trasformatore, e poi questo switching qua, che non serve a nulla, costano poco ma non valgono niente. E io li ho pagati parecchio invece, perché non sono di quelli switching normali, sono quelli con gli strumenti, 30 ampere hanno, uno 30 ampere e l'altro 35, ma dice che stanno facendo questa alternata qua. Stamattina per esempio non ne avevo e adesso ce l'ho. La senti tu, Gianni? Sì, c'è questo ronzio sotto che ti porti appresso. C'è. Figurati. Ed è quello a 35 ampere che ci è attaccato. Oia. È sempre un tanallotto comprare roba del genere. Ti può andare bene oppure è l'esatto opposto. Aspetta che giro la spina, guardo un po'. Cosa è successo? Siete scesi di brutto? Ah, qua non, da queste parti non si è toccato nulla. No, questo...